us. Can't keep my eyes from the sunny sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound history. T-shirt con il logo di Country Skyline e di Rock FM in regalo ai primi 100 che si prenoteranno alla serata di venerdì 23 maggio, Country Skyline Farewell Night. Una serata con i turnover sul palco del Milwaukee 50s Diner e un DJ set di Maurizio Faulisi. Invia subito una mail di prenotazione a info@milwaukeediner.it o telefono allo 0362 583 073. Il locale si trova a Varedo, in provincia di Milano, sulla superstrada Milano-Meda. Informazioni su www.milwaukeediner.it oppure www.myspace.com/Maurizio Faulisi. Do you wanna dance? Yeah! You know you make me wanna shout, kick my heels up and shout, throw my hands up and shout, throw my head back and shout. Come on now, don't forget to say you be up. Don't forget to say yeah. Say you will. Say it right now, baby. Say you will. Come on, come on. Say you will. Say that you say you will. Say that you love me. Say that you need me. Say that you want me. still remember when you used to be 9 years old. Versioni indiavolate, dobbiamo dire, di questa Shout Lloyd Williams. Qui siamo andati veramente indietro nel tempo. 9:41 minuti primi, siete su Rock FM in questa giornata del mercoledì 21 maggio in compagnia di Marco Gravelli. Saluto Fabio Cai, per ora quello che mi chiedi è impossibile. Un saluto anche ad André. Ieri sera in effetti è andata in onda l'ultima puntata di Hard and Heavy, dice non ne ho persa una in tutti questi anni. Grazie Andrea, speriamo veramente di poterci risentire in qualche altra situazione. Poi il nostro amico che dice ora mi devi dire se non ascoltare Rock FM non porta sfiga. Oggi non posso ascoltare per mancanza di segnale. Non so da dove scrivi o invii l'SMS, ma suppongo che se non mi stai ascoltando e non puoi sentirmi, la mia domanda cadrà nel vuoto. Cos'è successo? Ho bucato e mi si è rotto il cric. E a te ogni considerazione. Ciao Mario del Carnevale. Carnevale o è in Liguria oppure in Toscana, suppongo. Controlleremo, ma mi risulta che funzionino almeno per ora le frequenze da quelle parti. Allora, noi proseguiamo con il prossimo tris. Un tris che porta tre band. L'ultima sono i Cinderella. I Queen li troveremo come secondo motivo e il primo porta una band dall'altra parte del mondo, un continente bellissimo, un paese bellissimo, tutto da scoprire. Molti vorrebbero andare là a vivere, ma purtroppo se arrivate dall'Europa potete rimanere 3-6 mesi con i visti e i permessi, poi vi sbattono fuori. Sto parlando dell'Australia e dall'Australia arrivano gli AC/DC. I hit the sand, I've been too long. Don't move, don't sleep, don't feel no Cinderella con le note di Don't You Know What You Got Till It's Gone in chiusura di questo Trisdassi, dove abbiamo ritrovato anche Now I'm Here per la formazione dei Queen, Back in Black degli AC/DC. E quindi, a proposito di AC/DC, Giulio Rocca da Milano mi dice: sono felicissimo non soltanto per ascoltare questo brano, ma anche per la notizia che prima o poi pubblicheranno un nuovo album in studio. Certo, prima o poi arriverà. Un salutone anche a Franco da Zena, e sempre da Zena dice: sono Lillo del Carnevale, il Carnevale di Celle Ligure, qui a Genova. La radio si sente benissimo. Di a Mario di comprarsi un'autoradio nuova per il suo furgone, grazie. Abbiamo anche trasferito questo messaggio. Ci avviciniamo al termine della nostra prima ora, 4 minuti alle ore 10, in arrivo una cattiva reputazione, forse un po' come la nostra, i Thin Lizzy.